Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia. L'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. E sono confermate anche le repliche, mercoledì notte dopo le notizie di mezzanotte, quindi verso l'una. I testi, se vi interessano, li trovate sul sito di Radio Popolare, cliccate sulle trasmissioni, cliccate sulla caccia e li trovate tutti lì. Thank you.